Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo noi di 451 Frammenti Sonori che ritorna come promesso nel 2012 puntuali, credo in maniera assolutamente impeccabile. Avevamo ovviamente annunciato nell'anno 2012 come se fosse qualcosa di molto lontano, in realtà è qualche giorno fa che era ancora il 2011. L'ultima trasmissione l'abbiamo realizzata proprio a ridosso di Natale, avevamo avvertito gli ascoltatori che probabilmente rientravamo l'8 di gennaio 2012 ed eccoci qua nel nuovo anno. Radio Monti e Telemonti sta incominciando un po' a dileguarsi nella nebbia di un anno abbastanza terribile, per cui adesso il grande boom del grande risolutore di tutti i problemi di questo paese è un po' scemato, questo suo grande alone di rispetto e di grande professionalità, e noi nel nostro alone di delirio e di sperimentazione ripartiamo. E dunque un saluto da Eliseo Scarpa per questa serata della prima puntata del 2011. Purtroppo sono solo, ecco, avevamo promesso io e Max Macchia, anche se non c'era virtualmente, che saremmo rientrati in onda insieme. Purtroppo invece sarò solo io a condurre questa serata, questa volta proprio per questioni di malattie. Dunque un caro saluto a Max, che è ovviamente influenzato, e dunque speriamo che rientri subito in grande forma anche per la prossima trasmissione di domenica, solo per quello, Max, non per il resto, impegnati su quel versante, il resto mi interessa poco. A parte gli scherzi, un saluto e ovviamente un augurio di un buon anno ci vuole assolutamente, date le premesse abbastanza inquietanti per il 2012 su tutti i fronti. E noi come 451 Frammenti Sonori ripartiamo ricordando prima di tutto che il nostro blog, per poter riascoltare o scaricare le trasmissioni, è sempre lì, è sempre presente. Oltretutto avevamo avuto qualche problemino tecnico nelle ultime trasmissioni, dunque non si poteva né ascoltare né scaricare le puntate, l'abbiamo risolto. Varie problematiche legate a piattaforme su cui noi appoggiamo gli MP3 stanno incominciando un po' tutte a sfoltire l'aspetto gratuito e stanno diventando tutte a pagamento, ma siamo ancora riusciti a installarci, dunque praticamente le trasmissioni sono praticamente quasi totalmente rientrate totalmente all'interno del sito, dunque saranno quasi tutte scaricabili. Ho detto totalmente credo 4 volte, ma si vede che sarà il vocabolo per il 2012. E dunque sempre il nostro indirizzo, che è www.451frammentisonori.noblogs.org. dunque partiamo, 2012 riparte con una sorta di giocosità e riprendiamo un tema affrontato un anno e mezzo fa circa, una trasmissione dedicata ai giocattoli sonori. L'avevamo affrontata appunto a maggio 2010, la riprendiamo e l'abbiamo reintitolata Giocattoli Sonori 2, voci, rumori, deliri animati. E qui giocheremo sull'aspetto dei giocattoli, sia autocostruiti e fatti suonare da vari autori, e questo ovviamente ci sono dei progetti che abbiamo già affrontato nella puntata di un anno e mezzo fa, ma anche un'attitudine, una tendenza musicale un po' pazza, un po' giocherellona, un po' manipolata, che attraversa l'idea appunto delle voci, dei rumori e soprattutto delle pazzie, dei deliri, che quasi diventano cartoni animati, dunque animati in una giocosità che tutti voi e tutti noi ci possiamo anche immaginare. E in questo contesto apriamo con un progetto che si definisce Little Bang Theory ed è nato intorno proprio al 2008, un progetto fatto partire da una vecchia conoscenza di 451, in particolar modo mia, dato che è un personaggio che ho inserito in alcune volte all'interno delle scalette della trasmissione di 451, Frank Pahl, musicista americano assolutamente anticonformista, situazionista, e forse qualcuno l'ha definito anche, leggendo alcune critiche su questo musicista così eclettico, anche una sorta di surrealista degli anni zero. In realtà Frank Pale ha iniziato le sue esperienze musicali alla fine degli anni 80, ma ha fatto emergere le sue maggiori intelligenze musicali, le sue creatività tra gli anni 90 e gli anni 0. Bene, partendo da Frank Pale è nato questo progetto che vede la presenza di altri musicisti come Terry Serris, Doug Shimmin e Claudette Jocelyn Stern, costruendo appunto questo Little Bang Theory, una teoria appunto di una piccola band anche riferita agli strumenti autocostruiti, ai giocattoli e alle trasformazioni di strumenti tradizionali che Frank Pale ha realizzato insieme ai suoi collaboratori, ed è un lavoro che ha fatto già da una ventina d'anni, appunto l'idea dei giocattoli che diventano autosuonanti e facente parte quasi di un'ipotetica piccola orchestra direzionata dagli altri quattro musicisti umani, una sorta appunto di piccoli androidi che riescono a realizzare attraverso una strutturazione meccanica dei suoni e delle armonie nonché delle melodie e delle ritmiche. Partiamo subito dunque con Little Bang Theory, l'album d'esordio di questo progetto del 2008, uscito per la Acidox Phonetic. Ce l'andiamo a ascoltare, proprio una traccia, la traccia di apertura di questo album intitolato Elementary 2008. Partiamo dunque, Little Bang Theory. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo l'apertura di Giocattoli Sonori 2, Little Bang Theory, progetto che, bello ricordare, ha voluto dedicare l'album intitolato Elementary al grandissimo André Breton, uno dei personaggi cardine del surrealismo. Appunto per questo, oltre a questo, diciamo, molti critici hanno affiancato l'autore, il musicista, con chiari ovviamente riferimenti e collegamenti al surrealismo, oltre che nelle musiche, nelle concezioni musicali, nel linguaggio, anche per un richiamo diretto nel stesso disco dove i vari autori, i musicisti, in primis Frank Pahl, che è l'ideatore di questo progetto, hanno voluto dedicare appunto a André Breton questo disco. E oltre a questa dedica c'è un'ulteriore dedica piuttosto importante all'interno di questo disco, in un brano in particolare, non il brano che abbiamo ascoltato poc'anzi, intitolato Toy Suite, e ha dedicato proprio un brano al grande, al grandissimo regista e genio assoluto del cinema, Jacques Tati. È proprio un brano dedicato al grande regista, appunto riferimenti chiari, netti, piuttosto indiscutibili a musicisti, a grandi pensatori e a grandi registi e intellettuali del Novecento da parte di Pahl e gli altri suoi compagni di viaggio e compagni di progetto. Frank Pahl ci porta verso un autore, un musicista che è simile anche come attitudine e ovviamente atteggiamento musicale, l'ho avuto in tanti anni di carriera, assolutamente scomodo, scivoloso e piuttosto acido anche nelle sue composizioni, nelle sue elaborazioni, e oltretutto musicista e autore che ha collaborato con lo stesso Pahl, con tutto questo universo che gira intorno anche a questo progetto che abbiamo appena ascoltato, cioè la Little Bang Theory. Si tratta del grande, conosciuto da direi molti ascoltatori e molti appassionati, Eugene Chatburn, che è passato diverse volte in varie trasmissioni di 451, anche ovviamente per la sua indefinibile catalogazione all'interno di un qualsiasi genere, qualsiasi nucleo musicale. È veramente un pazzo, un geniaccio che ha attraversato ormai 40 anni di musica sperimentale, e lo abbiamo pescato all'interno di Giocattoli Sonori 2 perché si inserisce perfettamente dentro il delirio, l'assurdo, il rumore del suono mischiato a una voce stridente e provocatoria, e all'interno appunto anche di un aspetto giocoso e riverente nei confronti soprattutto del potere. E questo disco che andiamo a pescare sta perfettamente dentro questa logica. New War, uscito nel 2001, un disco dedicato fondamentalmente all'annuncio che fece il presidente Bush nel 2001, appunto dopo l'attentato dell'11 settembre, nell'instaurazione di una nuova guerra, appunto il titolo dell'album è New War. E Chatburn lavora in maniera assolutamente provocatoria con dei titoli, dei brani assolutamente incredibili, da New War, che è il brano che andremo a ascoltare di apertura dell'album, ha ad esempio brani un po' pazzeschi come Dachau Blues o addirittura un A Hole in the Pentagon, che è ovviamente il buco nel Pentagono dopo che c'è stato un attacco terrorista. Un disco che ha avuto anche qualche problema dal punto di vista poliziesco, perché insomma ci sono state anche varie limitazioni e blocchi alla sua uscita, tant'è che alla fine è uscito successivamente con varie problematiche. D'altronde negli Stati Uniti su questi piani è difficile anche scherzare o provocare, e d'altronde Eugene Chatburn lavora su questo piano da molti anni, come ha fatto anche Pahl e i suoi collaboratori e compagni di viaggio della Little Bang Theory. Rimaniamo appunto all'interno di questo gioco, e chiaramente questo giocattolo sonoro piuttosto anche greve, pesante, legato ovviamente alla guerra che poi partirà dal 2001 e che ancora oggi continua a essere presente, in ogni caso la guerra permanente. E Eugene Chatburn appunto gioca, provoca attraverso questa forma ovviamente di attacco, provocazione e anche delirio animato. Ce ne andiamo ad ascoltare questa canzone vera e propria, New New New New New War War War War, sembra appunto un giochino di parole, sono anche riuscito a pronunciarlo clamorosamente. Andiamocelo ad ascoltare, dunque continuiamo dentro i giocattoli sonori 2, voci, rumori, deliri, animati, Eugene Chadbourne, New War. There's a flag in every window, in every car, at every store, and they're all reminding me it's a new, new, new war, war, war. The president says that I'm helping out as I shop and do my chores. We're all doing our part for the new, new, new war, war, war. Keep your eye on strangers. The neighbors can keep an eye on you. Paranoia. That's not very new. My plastic razor is a weapon. I got a mailbox full of spores. And we're calling this normal life in the new, new, new war, war, war. We're making progress day by day. Tomorrow we blow up the Red Cross store once more. Oh, we're getting so even in the new, new, new war, war, war. Climb right through the mountains. We're gonna catch him like a coin in a fountain. Bragging about what we're gonna do, that's one thing. That's not very new. Like the mad bomber, Eric Rudolph. Catching him, we couldn't do. Failing completely, that's another thing that's not very new. But the whole world is getting together like never. It's something different. We've never seen it before. Yes, they're talking about the new, new, new war, war, war. The president says we'll smoke them out. Oh yeah, we'll even the score. That's what we're gonna do. Smoking civilians. Apologizing when their bodies are cold. That's one thing that's gotten kind of old, and they won't show everything on the Wolf Blitzer show. There's so many secret parts of our new, new, new war, war, war. That's why they call it covert. That means nobody knows. Followed by indictments, 'cause no one approved. That's one thing that's not very new, but we're all getting together like never before. Still, I think that they're gonna call it America's new. Call it what it really is. Oh, people would all say, go screw. You call it a world war. Well, and then wouldn't be new. So there's a foreign accent. The cops kick in the door. It's all for our security. The new, new, new war, war, war. We've made heroes of firemen. Now the cops can bust them just like whores, smelling the pleasant atmosphere of our new, new, new war, war, war. Society. While the ordinance sucks up all the gold, that's another thing that's gotten pretty old. And the world's getting together like never before. Still, we're gonna call it splendido questo lavoro di Eugene Chadbourne, l'album New War uscito nel 2001-2002, anche se appunto c'è stato qualche ritardo a causa di problemi non da poco per l'autore americano. E dentro questa sua provocazione, il suo delirio surrealista anche da parte di Eugene Chadbourne, entriamo dentro un altro fenomeno musicale che si rifà molto al surrealismo. Direi che stasera apriamo molto su questa tematica. Un progetto assolutamente fondamentale per la musica sperimentale europea, gruppo francese DDA, un progetto nato alla fine degli anni 70, inizio anni 80, che si è mosso sulla sperimentazione più radicale, arrivando appunto anche a punte rumoriste, ma anche a un'idea del college tape, a una sorta appunto di incastro, registrando e manipolando varie tracce e vari suoni suoni, registrazioni per costruire appunto anche dimensioni sonore surrealiste e visionarie, riferendoci anche molto per quanto riguarda questo progetto, questo collettivo costituito da tre artisti che oltre a muoversi sul piano musicale si muovevano anche sul visual art: Sylvie Martineau, Jean-Philippe Fy e Jean-Luc André, progetto nato a Lione appunto alla fine degli anni 70, e ha costruito delle pagine musicali molto importanti, anche deliranti, provocatorie, giocando appunto su dinamiche sonore che ricordano anche molto le sperimentazioni di Nasutun, ma anche le sperimentazioni parossistiche e assolutamente imprevedibili dei Residents, a cui i DDA hanno fatto molto riferimento. Produzione che è andata avanti a livello sonoro per tutti gli anni 80, fermandosi praticamente alla fine degli anni 90 come produzione musicale dal punto di vista anche piuttosto importante, ma la cosa interessante è uscita anche un'antologia per quanto riguarda questo progetto proprio nel 2009, ma per quanto riguarda dischi veri e propri c'è stato soltanto un rientro nel 2000 con l'album Le Conférences Marrakech. E il mio francese fa schifo, lo dico subito, mi lancio con queste pronunce ma non ci posso fare niente. E invece il disco che andremo a ascoltare, una traccia che dà l'idea appunto dell'aspetto anche del gioco portato in una dimensione chiaramente anche molto visionaria e assurda da parte dei DDA, è il disco Action and Demonstration Japan, uscito nel 1982 per la Illusion Production. Un album veramente straordinario, perché dall'inizio alla fine non dà punti di riferimento e ti sorprende sempre, mantenendo sempre vivo l'ascolto e l'attenzione, e ovviamente lasciando anche molto interdetti in alcune soluzioni sonore. Molta attenzione per quanto riguarda questo progetto al suono, oltre che alle composizioni e alle costruzioni, seppur forse la parola più adatta, la definizione più adatta, più che costruzione, decostruzione per quanto riguarda questa progettualità e questo collettivo. Andiamocela a sentire, sempre dentro voci, rumori, deliri animati, Giocattoli Sonori 2, Action and Japanese Demonstration, DDAA. Mm-hmm. Oh. Dopo anche questa costruzione, seppur veramente assurda, assurdista, forse più appunto decostruzione musicale attraverso questo progetto DDA, attraversiamo ormai il finale di questa prima parte e ovviamente tra pochissimo partirà il GR di Radio Popolare Network con questa cantilena che sentite sottofondo, appunto sembra quasi un giocattolo o un carillon andato un po' a male. E appunto dopo i DDA andiamo a trovare un autore canadese molto importante sulla scena degli anni zero della musica elettroacustica. Ha portato avanti degli studi molto molto interessanti, oltre ad aver seguito e portato verso grandi elaborazioni musicali dei progetti presso vari istituti musicali di ricerca musicale. Parliamo di Gilles Gobel, autore appunto francese, in stretto contatto anche con un altro autore, anzi scusate, canadese, non francese, ma in stretto contatto con un autore francese come Michel Kion, che andremo a sentire nella seconda parte di Giocattoli Sonori 2. L'album che andremo adesso ad ascoltare è uscito nel 2003, Le Contrat, lavorato e costruito insieme anche a un altro grande chitarrista, René Lussier, e lavora appunto in un ambito elettroacustico sperimentale con dei momenti anche ovviamente piuttosto deliranti e assurdi, utilizzando anche strumentazioni elettroacustiche piuttosto anomale, autocostruite, un po' pazzoidi, che ricordano appunto strutture e suoni molto giocattolosi. E in questo disco sentiremo, soprattutto nel brano che adesso andremo a mandare in onda, un certo richiamo, un riferimento piuttosto giocoso e divertente nei confronti di qualche animaletto. Non vi dico altro, sorpresa, ma tanto l'animaletto è abbastanza facile da scoprire ascoltando il suono, il suo suono particolare. Andiamoci a sentire dunque, chiudendo velocemente la prima parte perché sennò non riusciamo ad ascoltare il brano. Le Contrat è l'album uscito nel 2003, Gilles Gobel l'autore. Ci risentiamo dopo il giro di Radio Popolare Network. Can't really,